Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoodi 105 archivio bot. All right. Dai che siamo in chiusura, dobbiamo dare la linea. Oggi so che abbiamo un collegamento esterno. C'è Marco Mazzoli che oggi quindi rientra nel... Come sentite, in Valtellina, e lì stanno già preparando... C'è il salame buono, c'è... Marco! Heidi! Heidi! In... No, basta, fermo. Perché so che tu vai avanti. Fermo. Ciao Marco. Che come sei messo lì? Malissimo. Perché? Perché la mucca Muriel ha fatto delle cose strane qua. Ma è vero che Giba, per via delle sue macchie, viene definita il disc jockey pezzato, Sì, ma per altri motivi anche, per altri ovvi motivi. Ah, lascia stare allora, non me li dire. Dopo due ore di trasmissione sotto l'ascella, non vorrei, si formano altre parti pezzate. Io mi dissocio totalmente da quello che stai dicendo Mazzoli. Ho uno stile decisamente superiore a tutto quello che adesso in poi sentirete su Radio 105. Sei un bastardo dentro, ma lo dentro, sai, nel profondo, nel polmone, ma anche destro. Un po' di fianco, ho visto. Adesso abbattiti però, perché noi dobbiamo collegarci con la Happy Line a casa. 8596 140. Ciao, sono io a Pordenone, volevo salutare sì. Andrea e il Bigio che sicuramente vi staranno ascoltando. Ma dai, ciao. Ciao ragazzi, pronto? La mia nuova prof di filosofia sì? È identica a Codazzo. Madonna, la prof di filosofia. Codazzo, l'altra volta hai fatto un'impresa grandissima, non sei grande, ma qualcosa di più. Ma dai, qual è l'impresa? Ah, della Fontana. Ciao Marco, sono Cesare, volevo solo dirti che venerdì ero lì in prima fila, è stato stupendo, siete grandi, tornate presto. Vai, grazie Cesare, speriamo, perché è bello, bella storia, anche perché così, a parte che torniamo al Forrosis, ma poi torniamo... là nel nostro paradiso da Silvio, vai, eh? Ciao pizza! Ciao fratelli, non avendo le stesse scarpe, freaking away! Bravo. Ciao Bibi! You smell me, you feel me, blazing out! È tornato dal Messico, è stata un'emozione veramente, che voglio dire, purtroppo, si è Corrado Riva! Ciao ragazzi, torno a Garbagnate con euforia, ma domani rientro qui pieno di allegria! Sì, salutami anche tua zia! Yeah. Ciao Leone! Leone di Lerni dalla Spagna, va in Madrid a fare la partita per domani, ciao! Cosa ha detto? Piol sarà il nostro resident DJ anche domani, a meno che ci ripensi stanotte e dia una mano al programma con la sua non presenza, ma non è detto. Ciao Piol. Comandi. Gilberto Giunti, come sempre, il supervisore resident DJ, grazie Invernizzi e Stefano sulla Happy Line. Marco Galli, vi l'appuntamento domani. Domani ne combineremo altre, come sempre, nel nostro Happy Days. Adesso la linea. Marco, va... Marco, oh, ascolta, te l'ho chiesto anche prima di andare in vacanza. Adesso sto collegamento lo devi staccare, no, sennò so. Questo ci martirizza. L'autografo di Piol, per favore. Mazzoli, non te lo posso dare l'autografo di Piol. Ho parenti in tutto il mondo che me lo chiedono, ti prego. Dai, fai il bravo, ciao. Ciao. Ciao. Fai il bravo. Ci sentiamo domani, vai Codazzo! Auguri per la Sampdoria! Stasera batterà il Cosenza 2-0, doppietta dei Palmieri! Auguri anche a Marco Mazzoli! No! Grazie mani! No! Non arriva a domani! No! Ma porca! Auguri alla macchina di Mazzoli! Smettila! BMW! Sì, poi! Che bastardo! Ah, c'è la BMW! Ma smetti anche tu! Certo, ma porca certo. Di una. Musica e buon umore! Sì, certo, iniziamo bene oggi, Iniziamo bene! Con gli auguri di Codazzo, ma porca miseria! Siamo tornati dalle vacanze! Abbiamo un sacco di appuntamenti come sempre, ci sarà il Mugisce Vinci, torna alla grande, avremo un sacco di notizie di cui parleremo, c'è Gibba in regia, ciao uomo, saluta! Uè! Uè! Basta, c'è questo il tuo saluto? Questo è quello che ti meriti. È veramente fantastico. Comunque spiegheremo tutto quanto tra poco, intanto vi do i numeri per entrare in contatto con Radio 105 da tutta Italia. Numero verde 1678 26044. Codazzo, vai a casa, smettila. Iniziamo con Lene Marlin. Un disastro, andiamo. Assoluto di questo periodo, è il disco che oggi chiude l'Happy Days. Madison Avenue, una delle nostre proposte, che quindi oggi proprio in chiusura la usiamo come sigla, ringraziando Pizza della sua presenza. Ciao fratelli, freaking away! Ringraziando Bibi, The Brian, The Vocalist. Smell me, you feel me, blessing out. Oggi devo dire che ha dato il meglio. Grazie Corrado. Prego, questa sera su Italia 1 spettacolo puro. E chi sei? Pelegatti. Chi sei? Carlo Pelegatti. Biroff si arrampicherà in cielo. Va bene, io sono contento per voi. Adesso sentiremo anche cosa dirà Codazzo. Leone, come la vedi? Ah, io lo vedo benissimo. Però tu parlavi prima del disco. Il Leone del 2000 non si trova in Italia. Sono andato all'estero a comprarlo, Carlo Marco. Sono andati all'estero a comprarlo, pensate. Straparla ormai, Leone. È in analisi da 3 anni, ma non serve a niente, butta via i soldi. Grazie Piol per tutto quello che hai combinato oggi. Prego e comandi come al solito. Beh certo. Invernizzi e Stefano sono stati sulla Happy Line. Gilberto Giunti, se non ci fosse stato, guai. Grazie Gil. Grazie a te. Il bravo Marco Galli vi dà appuntamento domani dalle 2 alle 4. Marco Mazzoli continuerà il nostro pomeriggio su 105. Codazzo, cosa fa il Milan? Il Milan stasera batterà l'Hertha Berlino per 2-0. Birof Shevchenko, forza Milan. Auguri a Mazzoli. Basta! Alla sua macchina. Scalza le mani. Basta! Non arriva domani. Basta! Mazzoli, o mi regali la macchina o puntini ti puntini. Spacco una gamba. Bastardo. Bastardo è una parola grossa. Ma come posso iniziare il programma? Galli, ci sei ancora? Galli? L'ultima volta che gliel'hanno detto, quello lì è ancora attaccato al palo che cerca di scollarsi. Volevo fargli gli auguri io, porca miseria. Ma porta sfiga, è un boomerang se fai gli auguri. Ho capito cosa devo fare, questo ogni giorno ce l'ha con me. Ma tu sorvola. Cioè, sorvola. Ho bucato la gomma ieri sera, non volevo dirtelo. Fai il bradipo, fai come il bradipo. Sì, bradipo in te stesso. Vabbè. Ciao Galli. Ciao Mazzoli. A domani. Bravo, ciao. Un bacio. Auguri. Un bacio, pure ricchio. Auguri. Allora inizia la seconda parte del pomeriggio su Radio 105 con Mazzoli. Tra poco vi spieghiamo tutto quanto. Adesso iniziamo con Britney Spears. Che sueño. Dolce y pequeño. Te sueño. Todos. Pero no es un cuento. Te quiero, chica. Mento. Chico latino, te quiero. O simplemente te sueño. Muchas gracias por el tu amor. Es un sueño latino. Cioccolatino, sembra mio cioccolatino. Dolce lei, cipi cipi. Jerry Halliwell su Radio 105. Alzati Jerry. Cosa succede? Pronto? Vieni su da lì Jerry. Ma cosa? Jerry dove? Sono talmente ricco che Jerry Halliwell mi fa... Cosa? Schifo. Ma cosa fa, scusi, è in ginocchio Jerry? Ti ho detto di alzarsi. Ma fa la stagista o no? Così tanto per capirci. Vai via. Certo. Senta Jimmy, mi dia una mano perché oggi abbiamo un sacco di cose da fare, come tutti i pomeriggi su Radio 105. Ci collegheremo tra 8 minuti circa con lo SMAO. Oggi sono stati un po' di casini, quindi l'Ambaradani è rimasto in diretta dalla sede centrale di 105. Però ci sarà Marabotto sul palcoscenico del nostro fantastico stand insieme a Infostrada con Davide De Marini. Si pare che abbia organizzato un giochetto, una cosa simile. Quindi lo salutiamo, ciao Marasbotto. Poi giocheremo ovviamente al Mugisce Vinci. Ecco. Bravo Donatello. Mazzoli Marco mi chiamo. Mi hanno detto che sei veramente un nano. Ma comunque, non sono un nano. Sei alto 1,5 m. Ma non è vero. Casualmente 105. Come? È verissimo. Ma non è vero. Mi hanno detto che accendi l'interruttore della luce col colpo di testa. Ma non è vero. Non è vero. È vero, è vero. No, assolutamente. Poi giocheremo a CD Competition, ci sarà il gioco Blockbuster, quindi vi diamo tutti i numeri per mettervi in contatto con Radio 105 da tutta Italia. Il numero verde lei lo conosce? No. Ecco, 1678-26044, il fax è 02-655-1245. I fax vanno indirizzati a Donatello. Certo, va bene. Donatello il nano. Non sono un nano, sono alto 1,76 m. Sei più basso del tuo naso. Ma smetta, com'è possibile? È veramente incredibile. Cioè sono più lungo di naso che di altezza. Assolutamente sì. Certo. Basta, abbiamo ricordato tutto. A posto. Saluto Elena che è al centralino. Ciao amore. E mettiamo il secondo disco di oggi. Oh, Jimmy ha qualcos'altro da aggiungere? Cioè, allora, volevo solo sapere una cosa. Mi dica. È vero che quando piove, sì, lei se ne accorge un quarto d'ora dopo? Perché? Perché l'acqua da lei arriva dopo. Ma non è vero. Ma non sono così basso. Lei quanto è alto, per esempio? Innanzitutto lei fa troppe domande. Ecco, quando devo toccarla lì, nei punti deboli. Lei non mi tocca proprio da nessuna parte. Guardi. Ma è lì. Veramente incredibile. È veramente incredibile. Senta, sono talmente ricco, sì? Che da settimana prossima, sì? Starò con lei fino alle 6. Ah, fantastico. Vedi quanto sono ricco, provi a immaginarselo. Perché va detto che lei alle 5 e mezza deve sparire. Perché suo padre 5.35 massimo. Massimo, esatto, quindi abbiamo ancora un 10 minuti circa. C'è un fax per lei, ciao Barbone. È incredibile, sto fondando il Jimmy's Fan Club. Mazzoli va RTL. Siete grandi, Sergio da Bari. Ce ne sono mille altri per lei, dopo li leggiamo alla fine del programma, ok? Mazzoli? Sì. Ma è vero che l'ultima volta che è caduto dal marciapiede, sì, per farla risalire ha dovuto chiamare i pompieri? Ma è vero che lei è così nano? Ma io non sono basso. Donatello, caro il mio Donatello. Chiamo Marco, non Donatello. Parliamo di prodotti seri, vai. Ecco, esatto. Sta per nascere una linea telefonica del futuro. Io non ne sono convinto, quindi sa che mi esce un po' così. Così come? No, dico, non ne sono convinto, insomma. Ma lei non è convinto neanche di come si chiama. Vuole essere convinto delle cose degli altri. Mettiamo lo spot, Jimmy Tell, vai. Nel marasma della telefonia, in Italia, nasce la nuova realtà telefonica mondiale. Jimmytel. Bello. Basta con i 900 MHz, 1800 MHz, dual band, multiband, Steve Miller Band. Da oggi telefona con Jimmytel. Jimmytel. Da oggi telefona con Jimmytel, la compagnia telefonica del nuovo millennio. Con Jimmytel non hai bollette, ma bonifici bancari. Certo. Perché più telefoni, più guadagni. Ma come? Jimmytel. Cari barboni, sono Jimmy, padre fondatore del mondo, creatore di tutto quello che esiste e deve ancora essere creato. È incredibile. Da oggi con Jimmy Tell ti pagherò ogni volta che chiamerai. Certo. Vuoi fare una telefonata intercontinentale di 27 ore? Sì. Falla! Io ti do 1540 lire più IVA al minuto. È incredibile. Jimmy Tell. Jimmy Tell. Jimmy Tell. Più lo usi e più diventi miliardario. È veramente incredibile. Anche questa volta dimostro la mia bontà verso voi umani. Barboni! Non ho parole, veramente. Non ho parole. Jimmy Tell. Che tristezza. Siete su Radio 105. Cosa fa? Cosa fa? Sto rintracciando Alessia. Ah, certo. Per? Ciao, sono Alexia e anch'io devo il mio successo a Jimmy. No! Ha presente un ventriloco? Sì. Non c'entra niente. Ecco. Quindi? Lo faccio praticamente sfrigando i piedi. Ma come? Con una mano. Ma smetta. È un metodo un po' particolare, ma è la verità. Certo. Ero in diretta su Cuba, su Radio 105. Bang, bang, cavalli li ha inventati lei, ovviamente, no? Assolutamente. E allora mi spieghi una cosa? Sì. Un dubbio che ho. Sì. Ne ho tanti, però questo è uno dei tanti. Perché i cavalli li ha fatto... Il pennellone? Esatto, non volevo dirlo. E a lei no, lei si chiede questo. Perché tutti hanno il pennellone e lei non ce l'ha. Ma non è vero che non ce l'ho. Lei ha una X? Non ha una X. È vero? Ma forse. Ha subito un'operazione e gliel'ho messo una X? Sì. Ma perché era troppo piccolo? Non lo so, lo chiedo a lei. Che devo andare a cercare la cartella del chirurgo. Dai, pubblicizziamo l'antisbuccio Maori numero 2, l'innovazione che è meglio. Non parliamo dei miei problemi, scusi. C'è? Pronto? Pronto? Mettiamo lo spot, antisbuccio Maori 2. Ciao cara, vado in ufficio. Ma amore, aspetta, ma cos'hai sul braccio? Che tamarrata è? Ma come sei antica, è l'antisbuccio Maori numero 2. Ehi, tu, Sì, tu. Sei un vero tamarro del West. Adori addobbare la tua auto con luci alla supercar. Beh. Ti piacciono gli alettoni, sì. Le tendine di Marilyn. Adori fare il presepe nel porta oggetti. Che schifo. Ma soprattutto, viaggi ancora col braccio fuori dal finestrino, anche con sto freddo? Se hai già comprato l'antisbuccio Maori, non puoi farti scappare l'antisbuccio Maori 2. L'innovazione. Che innovazione. Antisbuccio Maori 2 è il copribraccio per chi lo tiene fuori dal finestrino anche il 15 febbraio. Certo. Antisbuccio Maori 2 esiste nei modelli Fonzarelli. Fonzarelli. Con manica di pelle vera, pollice finto sempre alzato per sembrare sempre positivi. Certo. Il schiocco originale di Fonzi di Happy Days. Il modello Bill Clinton. Cioè? Ma Wonder Woman. Il modello Bill Clinton. Con peli di braccio brizzolati e sigaro incastrato nelle dita e testa in polistirolo con riproduzione della faccia della Levinsky incastrata nel finestrino. E per finire, la novità dell'inverno. Sì. L'antisbuccio Maori 2, modello biadesivo. Ecco. Biadesivo. Eh sì, anche tu biadesivo. Potrai tenere il braccio fuori senza nascondere le tue tendenze. Infatti, il modello biadesivo ha manica in seta fucsia, unghie dipinte, borsetta in tinta e, certo, in novità, una sigaretta finta a forma di Maori per farti riconoscere dalle tue amichette biadesive. Ma pensa. Attenzione, se compri l'antisbuccio Maori 2, sì, in omaggio una gamba finta da incastrare nel baule della tua auto per essere un vero Maranza Doc. Antisbuccio Maori 2. Certo. Per il Maranza che c'è in te. Non ho veramente parole, Jim. Le sue creazioni sono davvero incredibili. Come vedi, ho pensato anche a lei. Cioè? Con l'antisbuccio biadesivo. Ma io non sono biadesivo. Sono straight, come si dice in America, dritto. Ricordiamo il nostro sondaggio. Sì. Tre motivi per mandare via Mazzoli. 0265 1245. Io veramente inizio a insultare gli ascoltatori, cioè non è possibile. Io lo so perché non hai parole. Perché? Perché sono ignorante. Ah, ecco, lo sapevo io. Lei è qua per quale motivo? Che rumori fa? Siamo in onda. Oh! Parliamo di cose importanti. Va bene, parliamo della bicicletta del futuro, Jimmy Bike. Sta arrivando il nuovo millennio. Sì. La tecnologia avanza. Ah, la panza. La È un peccato Corporation, in collaborazione con Parrucar, il pupazzo di 105 e Jimmy Tell, certo, presenta il vero mezzo di trasporto del futuro. Proprio. Se anche tu ti aspettavi di viaggiare nel 2000 con un'astronave, con la È un peccato Corporation ci vai vicino. È nata la Jimmy Bike, una bici futuristica, tecnologica, ano e analogica. Ma come? Jimmy Bike, la prima bicicletta in oro massiccio 24 carati, con diamanti al posto delle viti, certo, manubrio ricoperto in pelle vera, musca zezè, cambio 900 rapporti e pomello multiuso, per quelli che hanno strane esigenze. Ma cosa? Molti momenti di solitudine. Come lei? Ma la smetta. Jimmy Bike è la prima bici al mondo con cui non devi pedalare in salita, certo, ma solo in discesa, grazie al cambio creato da scienziati tedeschi della Multistrutz, no, azienda leader nei rapporti per bici. E non solo quello. Certo. È incredibile, ai primi 10 acquirenti in omaggio una bici gonfiabile con il pupazzo di Paltari con cui gareggiare nel tuo cortile. È veramente incredibile. Jimmy Bike. Jimmy Bike. Lei veramente, lei è incredibile. Ma chi la compra una bici del genere? Quanto costa? È chiaramente un prodotto di successo, lo si vede lontano un chilometro. Proprio. Quanto costa sta bici? Ma costa poco. Tipo? Me lo dica. Gliel'ho detto. Costa poco, quanto? Una cifra. Non faccia ste pause. Mi nervosisce. Il super nasone, eccolo. No! Marco il suo nome non lo ferma. Muovi il nasone, dei qua e della. Vai Donatello, non te ferma. Dallo studio 1 di Radio 105 a Milano inizia lo Zodi 105. Lo Zodi 105. Bastardi, bastardi e ribastardi ancora. È lunedì, abbiate pazienza, siate buoni, per favore. Buongiorno Italia, inizia lo Zodi 105. Ringraziamo Marco Galli e tutto l'Ambaradan che ritorna domani dalle 2:04 ovviamente su Radio 105. Noi stiamo per cominciare il nostro programma. Volevo salutare Giba in regia, ciao bell'uomo. Volevo salutare naturalmente anche tutti gli ascoltatori ascoltamucche che giocheranno con noi anche oggi al Mugisce Vinci. Vi do subito il numero verde 1678 26 044, 1678 26 044. In palio la maglietta di Radio 105, poi venerdì c'è il gran premio per quello che farà il mugito migliore. Poi ricordiamo il numero di fax 02 655 1245. Io sono un po' emozionato oggi perché questa sera registreremo la puntata del Night Express dove ci saranno i Savage Garden e Scisma e ci sarò io a presentarlo con Tamara domani. Ho paura. Dammi un bacio, Gimba, qua ti prego, ho paura. Grazie. Iniziamo, questo è il primo disco di oggi, iniziamo con Alexia, Goodbye. Pronto? Signor Jimmy? Pronto? Niente. Boh. Jimmy? Oh Jimmy, ti volevo ringraziare. Ho preso la Jimmy Bike, color diluente, che figata. Che colore è? Color diluente? Precisa proprio. Chi è questo? Suo figlio? Un suo dipendente? Non risponde. Andiamo avanti. Camilla? Tu sei il mio primo desiderio. Ma la scendiamo fuori, no! E nessuno se ne accorge. Oh, io sto benissimo, eh. Tutto a posto. E conviene dire che sta bene. Hai visto che vuoi qua? Sulla Jimmy Airline è tutto a posto. Senta, ma ho saputo che il figlio di Jimmy pilota l'aereo, ma com'è? David? Ormai il ragazzo è cresciuto, va. Me lo può passare un attimo così gli faccio gli auguri di buon volo, visto che è il primo volo che fa come pilota d'aereo. Va bene, non vado subito che mi dà. Come? Vado subito, Crebra! Cos'è che vuol dire? Che c'ho il tacchino sul forno! Ah, ho capito! Pensi che l'aereo ha messo pure la capa? Ah, la capa per cucinare? Sennò dove sfoghiamo? Certo! Avevamo pensato di fare lo sfogo interno, ma sa, no! Poi si buzzano i vestiti! Infatti! Cosa che capita! Mi passi la cabina di pilotaggio, per un favore! Un attimo, va! Grazie! Pensa a Teo! David! Dai, finisci di giocare con la PlayStation! Ma che PlayStation? Sta pilotando l'aereo! Vieni qua, dai, sembra giocare qua con questa visuale, sembra di stare in aereo, va! Siete in aereo! Vieni qua! Pronto? Ciao David, come stai? Pensa che ho dato il viewber a tutti i clienti. No, come il viewber? Abbiamo legato tutti i passeggeri in fondo e tutte le donne davanti. E cosa fate? Io esco dal viewber. No, il viewber, sì. David! Senti David, mi passi il papà, ma è lì sull'aereo con voi? Perché? Perché? Digli a Jimmy, c'è Mazzoli al telefono. Papà? Ci fa cagare al telefono. No. Mi dispiace, non c'è. Come non c'è? Non c'è. Mi passi qualcun altro, non so, un passeggero, qualcosa? No. Perché? Perché? Perché? Perché? No, perché te lo chiedo io? Perché? Dai, per favore, David. Senti, io sto lavorando. Certo. Sono al terzo quadro. Al terzo quadro di cosa? Devo finire il tragitto. Non mi fare sbagliare, se no spacco la memory card e cade l'aereo. No! David, no! Non fare cose del genere, c'hai su dei passeggeri importanti. Marco? Mazzoli? Sì. Fai cagare. No, David! David! Ma basta! Che fate allora, cabrio? Dai, giù tutti voi! Non è così grosso il mio naso. Lei è invidioso perché sa che io col mio naso faccio delle cose anche strane. Yes Club 7, questa è Yes Club Party. Jimmy! Jimmy! Jimmy! Eh? Ah, c'è! È finita, sì. Cosa? No, la storia d'amore. La sua? Ma tutti, meno male nella vita, almeno una volta. E con chi l'ha avuta? Ma con se stesso lo specchio? No, non credo, sa. No, con una ragazza. Con la biondina? Ma che biondina? La biondina che manda i fax? Che dice che le puzza i piedi? Non è vero, però. C'è scritto anche che ce li ho piatti. Ma non è vero. Mi chiede di leggere sto fax se ne ho il coraggio e io l'ho letto. E cioè, quindi? E quindi niente. Per cui? Per cui cosa facciamo? Mettiamo, di conseguenza? Mi lascia parlare. E allora? E allora dico cosa facciamo? Mettiamo un disco o pubblicizziamo uno dei suoi mille prodotti? Parliamo dei prodotti che hanno successo in tutto l'universo. Ehi, vuoi cambiare la tua vita? Ecco. Sei scontento del tuo reddito? Abbastanza. Vuoi sentirti talmente ricco da poterti comperare da solo? Certo. Per te che vuoi far parte della creme sì. È uscito il kit del piccolo miliardario. Il kit del piccolo miliardario. Ciao, sono Jimmy, l'uomo più ricco dell'universo. Sì. Per te, che sei un vero barbone, ho inventato il kit del piccolo miliardario. Pezzente! Con sole 12.000 lire, nel kit del piccolo miliardario troverai 12 miliardi in contanti. Un Empire State Building, grandezza naturale in kit, da montare nella tua città. Ma dove lo metti? Un ufficio componibile con mobili in oro massiccio, da montare nella tua casa. Tre Ferrari F50 con 3 anni di benzina gratis per sgommare in totale tranquillità. Certo. Un aereo Boeing 747 con equipaggio a tua totale disposizione di 26 elementi. Sì. E pieno di carburante per girare il mondo senza sborsare una lira. Ma ti rendi conto? Il kit del piccolo miliardario. Per sentirti talmente ricco da farti schifo da solo. Puoi ordinarlo anche via internet all'indirizzo www.sieteunamareribarboni@cheincredibilequantomifateschifo.com oppure www.donaldtrumpbillgatesonassisrockefellersieteripezzenti.it. Il kit del piccolo miliardario. È incredibile! Attenzione! Ai primi 50 acquirenti, sì. In omaggio, il buco dello Zolo è una città intera nella quale divertirsi a giocare a fare il sindaco per 2 mesi. Certo. È incredibile! Il kit del piccolo miliardario. Il kit del piccolo miliardario. Ho capito! Il kit del piccolo miliardario. Se non lo compri, sei proprio un barbone! Ma si rende conto? 12.000 lire. Tutta sta roba. Ma come fa? Lei ce le ha 12.000 lire? Certo che ce le ho. Se no gliele presto io. No, fin lì ci arrivo, grazie. Ah, va bene. Salve. E allora perché continui a perdere tempo con quel barbone di Mazzoli Nasone? Ma come? Perché è un cretino, ma papà. No. Mi fa pena. Anche tu mi fai pena. Ho smesso di raccogliere i gatti, raccolgo i deficienti. Ma cosa? Mi avevo detto di mandarlo via. E poi, quando partiamo con questa tua radio mondiale planetaria Jimmy Network? Schifezza. Papà, sto ancora finendo i casting. Un po' di pazienza anche tu, per favore, dai, non ti ci mischiare. E mi raccomando, facciamoci entrare anche quel barbone nel casting. Vediamo, se mi serve uno per le poesie. Stai sicuro che lo vengo a dire, papà? Ma così potrebbe anche andare bene. Parale giù. Ciao, papà, grazie. Prego, figliuolo. Ciao. Prego. Ciao. Ciao. Adesso basta, però, papà. Vattene. Hai bisogno di soldi? Ecco. Se mi fai un piccolo modifichettino, certo. 10.000 miliardi possono bastare. Ma come? Ti faccio bastare, dai. Va bene, te li manderò. Ciao. Ciao. Che rompi palle. A tuo padre, Jimmy! Incredibile, non mi fa più vivere ormai! Vabbè, ma è l'uomo più importante del mondo! Tutti lo pensano, ma in realtà non è così! E chi è? Sono io! Ma veramente non è cambiato niente! Niente! Chiamiamo a casa di Jimmy! Ma che squillo c'ha? Pronto? Ma perché non mi risponde mai nessuno? Guarda che... Pronto? Pronto? Pronto? Cos'è? Pronto? Pronto? David, sei ancora tu? Senti, prima magari ci siamo capiti male. Senti, mi passi il papà, per favore? Perché? Perché è urgente, devo parlare col papà, un secondo solo. Perché? Perché t'ho detto, è urgente. Papà mi ha regalato una base atomica. Una base atomica? Ah, piccolina, per Natale, dici? Quella di Mazinga. Ah, che bella, anch'io ci giocavo quando ero piccolo. Piccolina, no? Sì, però sì. È vera. Come è vera? C'hai i missili puntati addosso. Ma che c'ho i missili puntati addosso? Dai, smettila, David. Senti, basta giocare, passami il papà, su. Ora ti sparo un missile. No, David, fai il bravo, su. Non giochiamo, ti dai. Ti sparo un missile. Ma no, David. Ti sparo un missile. No, David. Perché? Perché? Perché se mi spari un missile mi fai male. Hai trombato a Capodanno. Ancora questa domanda. No, non l'ho fatto, David. Io sì. La vuoi smettere questa storia? Perché? Perché? Perché non è da bambino di 4 anni dire queste cose. Ce l'hai, piccolo. Non è vero. Io invece ce l'ho in armi. Smettila, c'hai 4 anni, David. Perché? Perché? Perché all'anagrafe c'è scritto che tu hai 4 anni e io 27. Ora mi sono rotto, ti butto il missile. No, David. Mi dispiace, sta per partire. Dai, David, non giocare, su. È partito. No, David. No, cos'è? No! David! Ops, ho sbagliato mille. Ma sai, Marco, Marco, mi dispiace, ma fai cagare. Non sono le frequenze tarate male, non sono i ripetitori con la valvola scarica, ma è quel rompipalle di Jimmy. Basta! Allora? È vero che si è comportato malissimo con mio figlio? Io? No, guardi, senta, diciamo le cose come stanno. Diciamolo in diretta proprio. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, suo nonno? No, il tuo. Il tuo di tua sorella. Va bene, senta, stamattina le ho dato una cosa da fare. Mi ha detto accompagna mio figlio. Lei una cosa da fare della vita. Una cosa. Cioè? Vestirsi la mattina e accompagnare mio figlio a scuola. Sono già due. No, è una. Ah, tutto perché insieme. Perché tanto quando si veste non capisce un cacchio. Certo. Perché dorme in piedi. Certo. Qui io l'ho accompagnato stamattina. E lei ha fatto un danno incredibile. No, è lui che mi ha portato in un posto sbagliato. No, non è vero. E siccome voglio dimostrare a tutti gli ascoltatori che lei non è capace di fare un cacchio. Perché lei non è capace di fare un cacchio. È vero? Un cacchio. Hai sentito? Non è capace di fare un cacchio. E quindi io le dimostro con la macchina del tempo, mago, lo faccia salire su che lei non è capace di fare un cacchio. Accensione macchina del tempo. Sistema operativo. Gran persona. Pronti per il teletrasporto. Vedrai che c'ho ragione io. Andiamo a stamattina, alle ore 8:30. Allora, Mazzoli, una volta uscito dalla villa, sì? Tra 27 minuti... Sì, vabbè, Jimmy, la so la strada, dai. Giri subito a destra. Sì, la so la strada. Te la ricordi? Sì, portiamo David a scuola, dai. Ok, mi raccomando. David, dammi la manina, l'istruzione, dai. L'istruzione del bambino è importante. Sì, va bene? Non si preoccupa, lo porto all'asilo e poi dopo torno in radio, ok? È vero? Sì, stia calmo, non si preoccupa. Ciao, David, buona giornata, mio pupillo. Perché? Non ti preoccupare, vai a scuola. Perché? È vero. Dai, su, sali in macchina, David, dai. Apri la portiera, dai. Dove mi parti? E ti porto a scuola. Devi andare a scuola, David, su. Dai, andiamo. Dai, entra qua. Non toccare niente, per favore, David, perché la mia macchina è nuova. Me l'hanno appena graffiata, tra l'altro. Ho la nausea. Ma no, la nausea subito. Dai, David, stai... Cos'è quello? Cos'è quello cosa? Le impronte dei piedi sui vetri. Ma niente, no, sono cose che succedono, sai, la gente magari è stanca la sera. Sì, sì. Sì, sì, cosa? Glielo dico, papà. Che cosa gli dice papà? Che te le fai in macchina. Ma che cosa? Ma non è vero, dai, su. Lascia stare l'autoradio. Quello? È l'autoradio quella, col CD. Ce l'hai piccolo. Ma cosa c'entra ce l'ho piccolo? Guarda il mio. Ma ma che schifo! Senti com'è forte. Ma David! Metti via quell'affare! Papà mi ha fatto bene. Sì, ti ha fatto bene. Dai, non toccare i pirolini lì, stai fermo che andiamo. Portami a scuola. Sì, da che parte giro adesso? Vai a destra. Sì, a destra di qua. Ecco. Ok, poi? Perché? Perché? Perché devo portarti a scuola. Dove vado? Sinistra o destra? Perché? Non lo sopporto più. David, dove vado? Sinistra o destra? C'è un incrocio. Spacchiamo gli specchietti alle altre macchine. Ma sei scemo? No, no, no, no, no, no. Papà lo fa sempre. Ma come papà lo fa sempre? Lui dispetta tutti. Ma smettila, non ci credo. Cos'è quello? Ah, è un tasto. Questo tasto qua ti apre e chiude la capote. Però adesso è inverno e fa freddo. Tu a Capodanno non hai trombato. Oh, David, basta con sta storia. Io dove sì. Giro? A sinistra o a destra? Ho la nausea. Oh, mamma mia. Mi scappa la tacca. No, David, non qua, non farla in macchina. Guarda che la faccio. No, che schifo, non farla, David. No, David, che schifo sui sedili di pelle. L'ho fatta. Ma guarda l'ho che... L'ho fatta. Dove vado, David? Guarda là. Che cos'è quel cartello? Dai, che schifo, ma come fai ad andare a scuola adesso conciato così? Guarda là, fermati sotto il cartello. Cos'è che c'è scritto lì? Incontri un po' osé. Ma cosa? Dove mi hai portato? Dalle meretrici. Ma che meretrici? Devi andare a scuola, David. Adesso gli andiamo a dare il Uber. Ma che Uber? No! Sì. No, David, non si può, devo portarti a scuola. Andiamo, dai. Ma che andiamo? Va bene. Ma che fa bene? Perché? Perché, dai, non si fa ste cose. Devo trombare. Ma smettila! Glielo dico a papà che mi hai portato qui. Ma non sono stato io! Glielo dico. Ma smettila! Così ti cappia. Ma smettila, non sono stato io. Perché? Ha visto Jimmy? Questo è quello che è successo stamattina. Jimmy? Adesso che c'ho ragione io, metti giù il telefono. Ha ragione. Ma che cosa? Sei un porco. Ma non è vero. Ma i bambini li ha portato lui lì. Cosa mi aspetto dal domani? Allora, finiamola con questa storia che i papà ricchi pagano i professori per dare i bei voti ai figli. Beh, secondo me invece è un po' vero. Non è vero. Non è vero, no. Lei non paga, lei non ha dato una bustarella alla professoressa o al professore di David? È vero che tutti i bambini sono trattati alla stessa maniera. Certo. Quindi finiamo con questa storia. Caro Nasone Donatello, diciamolo a tutti, perché guardi, non ne posso più sentirmi dire che io do dei soldi ai professori. Non assolutamente no. E quindi le faccio sentire che mio figlio è veramente un acculturato, non è un cretino. E cosa come fa? Lei. Mi porta a scuola adesso? Esatto. Ha una registrazione? Sa cos'è una scuola? Sì, ci sono stato. È andato a scuola? Per tanti anni. L'hanno bocciata 70 volte? No, un paio di volte. Claudio, non spendere più soldi tutti. Ma basta! Fallo stare a casa. Certo. Le pulizie. Sentiamo suo figlio a scuola piuttosto, dai. I bagli. Andiamo. Oh, allora, bambini, vediamo un po', adesso interroghiamo. Allora, vediamo un po'. Siamo a registro. Scuola. David, ecco. Alla lavagna, dai. Ecco. Ok. Alla lavagna, dai, piazzati alla lavagna. Allora, hai studiato, David? Perché? Ecco, queste sono le risposte che io pretendo. Voi imparate da David. Ma bambini, ha detto raccomando. Perché? Allora, rivoluzione francese. Parlami un po' della rivoluzione francese. Perché il Libera. Perfetto, ecco, questo è sintetico, essenziale, ma veramente preparato. Ma grazie, ma David, dove? Veramente tu sei un esempio per ma tutti. Ti faccio un'altra domanda soltanto così per dimostrare agli altri che hai studiato. Allora, David, mi sai dire la data d'inizio della prima guerra mondiale? Il Weber perché? Ma che cazzo? Ecco, ragazzi, avete visto David come è preparato? Ma che cazzo? Ecco, così vi voglio. Perché questa è l'essenza dello studio nella mia classe. Non ha risposto. Ok? David, veramente sei uno studente modello. Io ti ringrazio. David, scusa una cosa tra me e te, ma papà ti ha dato una bustarella con 50 milioni per farti superare l'anno scolastico? Sì, è qui. Ma dammela. Mi fai toccare una tetta. Ma come? Ma come fammi toccare una tetta? Dai, cioè, lo sai che per quello ci vogliono altri 50 milioni. La prossima lezione mi porterai 50 milioni e io ti farò toccare una tetta, va bene? Glielo dico, papà, glielo dico. Diglielo. Vai al banco, David. Grazie, sei veramente molto molto preparato. Grazie. Guarda che view bello. Ma cosa? Ma ti rendi conto? Jimmy? Pronto. Pronto. Sei un venduto, David. Fai cagare. Ecco. Todo dentro di me. Certo. Jerry Halliwell con Bag It Up su Radio 105 all'interno dello Zoo di 105. Saluto. Cos'è? Alle di Vignola? Alle. Ah, Alessandro. Poi aspetta, Il 1 aprile 2000 è venuto a mancare all'età di 27 anni Marco Donatello Mazzoli, ne danno lieto annuncio la signorina Gibba, Leone, Wender e Jimmy e tutti gli ascoltatori di 105. Ma noi adesso parliamo di Radio Jimmy Network, che all'interno ha un programma originalissimo. Non copierebbero mai nessuno. E infatti ci colleghiamo con Planet Dingo. Radio Jimmy Network presenta. Mai. Cambiare la sigla, no, No. Mai. One. Poi quella dell'anno scorso. Dingo. Sì. Planet Dingo. Lo scopo della tua missione è che tu ti faccia il bidet tutti i giorni prima di andare in onda. E di essere sempre impostato. Dingo is on the air. Planet Dingo. Planet Dingo. DJ Dingo. Benvenuti! Dingo! Benvenuti del pianeta! Ecco! Questo è il Planet Dingo! Sì! Come tutte le sere dalle 20 alle 22! C'è qualcuno che ci copia, lo sappiamo, nella galassia, ma non ci possiamo fare niente! Perché tanto ne rimarrà soltanto uno! Oh no! Dingo is on the air! Hanno guanti bianchi regia! Quello uguale! Ho visto questa sera con me, come sempre, a mio fianco! C'è sempre lui, Giorgi sulla chat. Giorgi, cosa ci dici? Abbiamo l'IKEA. L'IKEA. Dingo. Anche questa sera affronteremo un tema scottante. Un tema che a voi tutti è molto caro. Cioè? Perché come sapete, con la nostra musica le contropalle rimarrà soltanto uno. Cosa c'è? Sono la leggenda a Tiki. Cosa c'è? Sono la Dingo. Ecco, questa sera Dingo. Abbiamo un argomento veramente scottante. Cioè? Questa sera parliamo del perché l'uomo ragno faceva le ragnatele, ma nelle sue ragnatele perché non aveva mai le prede? Che argomento? Telefonateci. 0265545245 il fax. 0265545245 il nostro indirizzo di posta elettronica. Ma come fa? 0265545245 indirizzo di casa mia. 0265545245 è indirizzo della mia casa al mare. Sì, provo quella. Giorgi, cosa ci dici? Gli amici sulla chat di Androidi. Grazie Giorgi, come sempre l'Androide. Dagli la scossa, Arno! No! Bravo, così mi piace, Androide. No! Sentiamo chi sei in linea. Pronto? Ci sei? Sei attivato, Androide. Cosa fa? Stai tranquillo. Ascoltami. Ascolta, sei uno scassapalle, vuoi stare zitto o no? Devo parlare io. No! Cosa stavi leggendo? Antico. Bene, la tua risposta sai qual è? Io ti rispondo così. Ma che cosa? Non ti devi preoccupare. La Terra è un pianeta. Ma i pianeti sono i tanti. Di tanti ce n'è uno, tutti gli altri ne ha 31. Cosa vuol dire? Parla Dingo, è disattivato. E sapete cosa vi dico? Cosa stavate leggendo? Antichi. Sono disattivato. Ne rimarrà soltanto uno. Ma basta. So che qualcuno vi copia. Ma ancora per poco. Dingo. No. È disattivato. Dingo. Planet Dingo with DJ Dingo. Dingo, you have no other choices. Me l'ha detto dei mesi. È fuori. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma io non lo so, veramente. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. Ehi. Ciao. Sei in diretta. Io? Sì, papà. Ti stanno ascoltando tutti, quindi mi raccomando, fai il bravo. Sì. Aspetta, papà, perché volevamo farti tutti gli auguri, perché stiamo chiamando i nostri padri, no? Grazie. È in diretta. Però c'è Jimmy che ti vuol chiedere qualcosa, credo. Perché? No, quello è suo figlio. Mio padre. Claudio? Ecco. Ehi, Jimmy. Ciao, Claudio, come stai? Ciao, carissimo. Bene, sei una gatta sola, tu. Senti, Claudio. Sì. Volevo farti gli auguri da parte di tuo figlio. Ecco. Grazie. Perché tuo figlio non ti merita, eh. Lo dico. Scusa, ma perché quando hai alzato la cordetta non gli hai detto ciao amore? Bastardo. Perché non lo vedo, capisci? Guarda che sono un bene che non lo vedi, eh. Eh sì, lo so, è per quello che sto bene. Senti, papà. Sì. Mi paghi tu le multe, eh? Certo, chiaro. No, okay. Beh, è normale, perché ci sarebbe qualche differenza. Stai zitto. Vabbè, auguri papà. Grazie, è vero. È vero? Sì, è vero. Siccome è vero. È vero. Poi ci sentiamo in privato per i nostri affari. Certo, certamente. Fantastico. Ciao papà, auguri. Ciao, grazie. Mio padre, ciao a tutti. Uno che non ascolterebbe mai il programma, mio padre. No, assolutamente no. Mai nella vita. Dobbiamo fare una pausettina. Lo Zoo di 105 torna tra poco. Che gran persona è mio padre. Just take a look at me. Mazzolo. Sì, dimmi, Giba. Ci sono due telefonate di due ascoltatori. Per che cosa, scusa? Non lo so. C'è Beppe da Milano. Beppe da Milano. Pronto, Beppe? Sì, pronto. Sì. Dimmi, cosa c'è? Niente, volevo soltanto ringraziare Giba di Jimmy di esistere. Ma come? E perché? Marco, ha salvato una marea di persone, di disoccupati. Ma smettila! Ma guarda che Jimmy secondo me non esiste nemmeno, dai. Beppe, da che parte stai tu? Dalla mia o dalla sua? Io sto da tutte e due le parti, per il semplice fatto che lui mi fa star bene, tu mi fai ridere. Ah, ecco, preciso. Grazie Beppe per la tua testimonianza. Prego. Un bacio, ciao uomo. Ciao. Poi chi c'è in linea? Pronto? Pronto. Manolo. Oh, ciao. Ciao, ma cosa sta succedendo adesso? Cosa volevi dire tu? Io volevo solo ringraziare Jim perché mi ha creato. Ma come? Lui ha creato tutti noi. Io non mi sopporto più, giuro. Io non ne ho parole. Quanti soldi ti ha dato per dire sta cosa? No, niente, mi ha dato 250.000 miliardi. Manolo, vuoi salutare qualcuno? Jimmy. Tu, Jimmy. Va bene, ciao, grazie uomo. Ciao. Ciao bello. Guarda che è un'ossessione. Non ne posso più. Che stress, mamma mia. Dove è finito adesso quello? È incredibile. Ancora! Sono talmente ricco che ho inventato l'ascoltatore medio. Incredibile.